mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma son tanto felice viver lontano perché mamma solo per te la mia canzone vola. Mamma sarai come tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, questa parola d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non so dono più, mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita. Per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cercami riccioli d'or. Sento e la voce ti manca, la nina nana d'allor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai come tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole